Allora, cerchiamo di rompere il ghiaccio. Siamo qui con un compagno emozionato e sono le 11 e 50 minuti. Cominciamo questo approfondimento su Silvia, Billy e Costa, prigionieri anarchici in questo momento dello Stato svizzero che li detiene ancora ingiustamente. Non che ci sia una detenzione giusta, ma comunque. Vabbè, raccontaci un po' la vicenda dagli albori. Ciao a tutti e tutte, intanto. Dunque, Silvia, Billy e Costa sono stati fermati il 15 aprile vicino Zurigo. L'accusa mossa nei loro confronti a un posto di blocco sulla strada, ovviamente. L'accusa, o comunque le imputazioni, sono possesso, trasporto e tentato utilizzo di materiale esplosivo. Segnatamente la polizia riferisce che ci sarebbe stato un volantino di rivendicazione già pronto per un attentato, un attacco comunque a un laboratorio in costruzione dell'IBM. Sarebbe diventato, anzi diventerà, questo laboratorio il più grande laboratorio di nano e biotecnologie in Europa e niente, per questo motivo pare che questi nostri tre amici e compagni avessero intenzione di attaccarlo. Ti vedo un po' emozionato. Lo so. Dai, vabbè, scialla comunque. Senti una cosa, appunto, diciamo, il movente presunto di questo attacco sembra che sia l'attacco alle biotecnologie, alle nanotecnologie. Ecco, insomma, in questa radio non è un tema che viene affrontato spesso. Se ci vuoi se ti va, insomma, di spiegarci un pochino qual è la questione rispetto alle biotecnologie, alle nanotecnologie, che viene contestata da sempre dai compagni del movimento di liberazione animale e di liberazione della terra. Sì. Nanotecnologie e biotecnologie arrivano a modificare quel che c'è di più piccolo, più intimo nella materia, nelle persone, negli animali, nelle piante. Ma non è solo un discorso di questo tipo, è anche pensate agli orizzonti di repressione e controllo sociale che possono dischiudere delle tecnologie in grado di essere invisibili. Si parlava addirittura, è in progettazione tanti piccoli mini sensori come una polvere che potrebbe essere dispersa per la città e rilevare i movimenti di chi la attraversa, oppure vengono già usate, sembra, questo è un incrocio tra nano e biotecnologia, una falena robot praticamente che è stata robotizzata e viene comandata, non so, penso con una specie di telecomando, non ne ho idea, immagino siano cose molto complesse. Era una trasparente per studiare meglio durante la vivisezione, non so se l'hai vista. No, io parlo di una falena con una telecamera addosso, comunque in grado di inviare segnali video o audio, insomma, cioè sono in grado di penetrare qualunque cosa e di modificare, staranno almeno, ma già adesso, di penetrare la materia e modificarla come vogliono. E insomma, mi sembra una cosa a cui opporsi, perché poi c'è chi dice che la ricerca non è né buona né cattiva, però alla fine la ricerca ha bisogno di soldi e chi gli dà i soldi generalmente è per fare altri soldi, quindi sì, beh, un altro esempio di biotecnologia può essere considerato gli OGM, per esempio. Vabbè, gli OGM sono un classico proprio. Sono proprio, insomma, la biotecnologia più nota e più consapevole. In Italia, tra l'altro, recentemente, vicino Pordenone, c'è il sedicente movimento libertario, e poi di libertario, insomma, cioè, non c'è proprio niente. Sì, insomma, dei fomentati, probabilmente, penso al soldo della Monsanto, che hanno piantato clandestinamente due campi di mais OGM. Poi per fortuna sono stati distrutti, uno dagli attivisti di Greenpeace. La distruzione del secondo campo è stata rivendicata da Yabasta, ma insomma sembra che non ci fossero soltanto i disobbedienti e che insomma si siano un po' attribuiti qualcosa che non era esclusivamente loro. Sì, poi insomma, cioè, oltre al lato naturalmente, diciamo, dal punto di vista del controllo sociale che si può fare delle nanotecnologie e delle biotecnologie, mi viene da riflettere anche dall'impatto ambientale che hanno queste tecnologie, nel senso che poi dal punto di vista, per esempio, della biodiversità, sì, comporta una distruzione di un patrimonio enorme. Per esempio, questo mais OGM è stato distrutto, però dopo aver fiorito i pollini chissà dove sono stati portati. Adesso sicuramente il mais che verrà prodotto è stato contaminato e sarà OGM a sua volta, e quindi insomma è una cosa che una volta iniziata non può essere fermata, e viene giustificata spesso questo discorso delle piante OGM con l'opportunità di guarire dalla fame, sì, esatto, il mondo, ma in realtà preguriamo i bambini dell'Africa. Sì, ma se alla fine fossero così interessati a curare, insomma, a risolvere il problema della fame nel mondo, perché la Monsanto avrebbe tanti brevetti su piante che una volta seminate sono sterili? E cioè ogni volta sono costretti a ricomprare. Invece se fossero davvero tanto, vabbè, insomma, poi è inutile stare qui a parlare su quanto siano ipocriti e doppio giochisti le multinazionali che dietro una facciata di umanitarismo poi nascondono sempre la più bieca avidità. Sì, beh, certo, poi insomma, vabbè, insomma, è nota la vicenda degli OGM, del fatto che i semi siano fatti apposta sterili. Beh, non di modo... tutti, aspetta, non è che tutti sono così, alcuni sono fatti spesso però invece, cioè, quelli che non sono sterili poi in realtà sono resistenti a degli antibiotici, quindi tu ti devi comprare, sì, comunque l'antibiotico. Ci sono diversi motivi per cui può venire modificata una pianta o un animale, ci sono diversi scopi che possono essere aggiunti, appunto, essere, ad esempio, alcuni sono resistenti ad alcuni insetticidi, ad alcuni erbicidi. Allora tu spruzzi un campo con l'erbicida, devasti tutto senza prestare al minimo di attenzione ai danni che fai all'ambiente intorno, perché certo, comunque, cioè, quella è anche roba che noi ci respiriamo e ci mangiamo, e dopo tanto la tua pianta resiste e te la vuoi rivendere bello bello, però poi il terreno non vale niente, quindi di nuovo poi devi comprare fertilizzanti. Sì, beh, quello poi è il circolo vizioso delle... Sì, magari un giorno faremo anche una trasmissione sull'agricoltura. E, vabbè, ma insomma, torniamo invece un po' alla questione di Silvia, Billy e Costa, che attualmente sono detenuti in Svizzera, ma sì, hanno un po' una peregrinazione, cioè nel senso... Beh, inizialmente erano detenuti Silvia a Vienna, dove peraltro ancora è, Costantino a Berna e Billy a Thun. E... io devo dire la verità, ho mantenuto dei contatti solo con Billy, perché Silvia e Costa li avevo visti soltanto alla presentazione di nanotecnologie Mega Dominio che hanno fatto al Fuoriluogo a Bologna. E, niente, Billy mi aveva detto che il carcere di Thun, comunque, per essere un carcere, aveva delle buone condizioni di permanenza, perché non gli hanno accordato quasi subito cibo vegan e insomma le condizioni detentive non sono brutte come in Italia. E, al contrario, però, ad esempio la cella di Costa non ha, dove adesso sta Billy, poi, perché dopo lo sciopero della fame ci arriveremo, sono stati trasferiti nel carcere di Berna. La cella è, insomma, non ha finestre, quindi non si vede la luce del sole, la luce è soltanto artificiale e non arriva aria diretta, arriva l'aria soltanto tramite ventilatori, per di più è da solo, insomma, in questa cella. Sì, lui in isolamento da quanto tempo ormai? Ma non è in isolamento, perché comunque hanno, cioè, all'ora d'aria e tutto il resto. Ah, c'è l'ora d'aria, da solo, okay. Cioè, okay, in una cella singola così. Lui poi ne soffre perché è un compagnone, insomma. Billy è proprio una persona allegra. E, al di là di questo, le condizioni, più che le condizioni detentive, sono le condizioni legali. Nel senso, loro possono avere non più, cioè possono avere un avvocato a testa, non possono avere un avvocato da solo, singolo. Per tutti e tre. Sì, esatto. E oltre a questo, gli avvocati tra loro possono parlare solo per cause strettamente concernenti la linea difensiva. Quindi non si possono passare messaggi tra di loro. E il rischio è che se questo venisse fatto, gli avvocati verrebbero tolti e verrebbero sostituiti con avvocati di ufficio. Adesso gli avvocati sono sono compagni, comunque, insomma, vicini al movimento. Un'altra cosa, c'è la restrizione della posta, non possono ricevere più di 3 lettere al mese, non ne possono mandare più di 3 al mese. E... sì, scusa se ti interrompo, tu stavi parlando di questo punto, cioè del fatto che ad esempio Billy, che poi è quello che ti sta più vicino, sì, fosse stato trasferito da un carcere a un altro, diciamo, questo è un po', questo è successo, poi correggimi se sbaglio, dopo che ci fu sia da parte di Silvia, Billy e Costa all'interno delle carceri, sia che da parte dei compagni fuori e anche di un altro compagno molto noto, Marto Kamenisch, diciamo un'unione nella lotta che portò a una serie di scioperi della fame e di anche sì, incendi dei materassi. Sì, nonostante le gravi limitazioni alle comunicazioni tra di loro, loro non si possono parlare, non si potrebbero parlare, non si possono scrivere sicuramente. E tutta la posta ovviamente viene censurata, prima viene tradotta in tedesco, dopo viene approvata, forse censurata e spedita. E, nonostante tutte queste cose, questi ostacoli, sono riusciti a coordinarsi queste 4 persone e organizzare uno sciopero della fame che è andato dal 10 settembre a fine settembre. E questo sciopero era indetto in favore di tutti i prigionieri politici con lunghe condanne detenuti in Svizzera. E questo è stato un segnale forte, perché in Svizzera non si parla mai di politica, anche il loro arresto, hanno sempre cercato di tenerlo slegato il più possibile da motivazioni politiche, e come se fossero 3 teppisti, insomma, nel senso, l'idea è mantenere tutto sotto silenzio. Avvicinati un po' di più al microfono. Scusa. che dicevo? No, stavi dicendo del fatto che era molto importante che loro siano riusciti. Sì, comunque è stato un segnale, e questa è stata. E poi i loro trasferimenti sono stati una rappresaglia. Se su quello di Costantino e di Billy, che sono stati semplicemente invertiti, si può avere qualche dubbio, il trasferimento di Marco Kamenisch a Orbe, che è un carcere di massima sicurezza, insomma, certo, lascia intendere tutto. Sì, insomma, è abbastanza poco fraintendibile. E, lo sciopero, dunque, c'è stata Silvia che ha continuato lo sciopero, non dico a oltranza, ma sicuramente per altri 10 giorni, se non 20, ora non mi ricordo bene. E, mentre Billy l'ho interrotto prima, tra l'altro l'ho interrotto dopo un 10 giorni, 2 settimane, non mi ricordo bene anche questo, comunque con facendo anche un bellissimo comunicato che penso potete andare a leggere su silviabillicostaliberi.tk. Sì, che poi in realtà è un link al sul mio blog, però appunto di K uno magari se lo ricorda meglio. È più figo. Sì. E niente, insomma, parlavi degli scioperi della fame. Sì, parlavo degli scioperi della fame, insomma, non è che ci si aspettasse di ottenere niente, però è un bel segnale, speravano anche di motivarci qui fuori, insomma, ci hanno fatto sapere comunque. Il morale sembra abbastanza alto per quel che è possibile. Sì, che poi insomma, infatti non si sono mai fatte mancare le azioni in solidarietà con Silvia, Billy e Costa, sia dal punto di vista delle manifestazioni, sia dal punto di vista delle azioni dirette fuori dalle carceri, fin da quando sono arrestati in poi, perché comunque poi insomma, cioè, sono dei compagni che sono conosciuti, compagni attivissimi, molto attivi, sempre molto presenti in tutte le lotte di liberazione umana, animale e della terra. E si sono sempre spesi molto, e quindi sì, c'è stato fin da subito presidi non autorizzati sotto al carcere da parte dei compagni svizzeri, grosse scritte che apparivano in cantieri in costruzione ben visibili dall'autostrada, sabotaggi dei bancomat, insomma ogni sorta di azione. Sì, poi ovviamente presidi, banchetti per far conoscere la loro benefit, sì, per far conoscere la loro situazione, sì, anche perché comunque le spese legali saranno ingenti, insomma, sì. Si parla, se le accuse fossero confermate, si parla di pene alte, insomma, anche sì, poi comunque di pene alte, ma tra l'altro loro ancora devono subire il processo in Svizzera. Sì, stanno, le indagini ancora sono in corso, insomma, e sembra che, ma non vorrei dire una scienza, però mi sembra di aver capito che anche in Italia portino alcune, stanno facendo delle indagini, sì, stanno facendo alcune indagini nella polizia. Vabbè, senti, stai dicendo qualcosa? No, no. Dico, mettiamo una canzone di Stop, spero che ti piaccia. Sono i Le Tormenta, anche loro compagni, anche loro, sì. Compagni e amici. Compagni e amici, soprattutto di Billy, insomma, anche certo, anche perché poi Billy, possiamo dirlo tranquillamente, era un compagno molto attivo in un posto che si chiama Las Vegas House, che si trova in quel dell'intorno a di Bologna, Pastore, a vicino a Bologna, che è un così uno spazio dove vengono, sì, ospitati, diciamo, animali liberi. Sì, sì, animali lasciati in libertà. A volte sono gli animali che comandano sulle persone, ma insomma. Un posto bellissimo, tra l'altro, devo dire, fa freddo perché c'è un sacco di vento. Ma adesso mi dice sta la neve, non lo so. Vabbè, dai, mettiamo questa canzone che è La Luna, che parla appunto di una liberazione, esatto, animale. La dedichiamo, bella, come tutta la puntata, naturalmente, a Billy, Silvia e Costa. Allora, torniamo in onda dopo aver fallito un collegamento. Niente, salutiamo intanto, visto che questa qui così è un approfondimento antispecista, salutiamo anche il cane Grinch, che è qui in studio con noi, che è con la sua gamba zoppa, io sì, lo prendo sempre in giro. Mostriciattolo. È un mostriciattolo e sta qui che ci guarda perplesso. Va bene. E niente. E, eravamo rimasti agli scioperi della fame e alla solidarietà dentro e fuori le mura con altri compagni. E, ecco, poi stavamo accennando al fatto che loro comunque erano compagni attivissimi erano e sono ancora, anche se ora ovviamente era dentro le carceri, compagni attivissimi nella lotta di liberazione animale e della terra. Se un pochino ci puoi spiegare bene qual è, cioè quali sono, diciamo, i valori che porta avanti questa lotta, i presupposti e cosa cerca di ottenere? Beh, dunque, i presupposti sono innanzitutto quello di combattere lo sfruttamento dell'uomo sia sulle altre persone che sull'ambiente che sugli altri animali, dei altri animali, perché alla fine io penso che noi persone siamo animali, insomma, per quanto possiamo vestirci e andare in giro con gli iPhone e queste cose così, siamo sempre animali. E niente, quindi è una pratica che porta a una critica non solo però allo sfruttamento animale, come fanno magari gli animalisti, ma porta proprio una critica allo sfruttamento, a tutta la civiltà, a tutta la civiltà industriale, che alla fine, voglio dire, cosa ha creato? Sì, siamo 6 miliardi, arriviamo a 80 anni senza problemi, noi, però poi alla fine in che condizioni lo facciamo? Noi che siamo ricchi, gli altri manco arrivano a 30 anni, quelli, che ne so, in paesi meno fortunati, diciamo. Meno fortunati. Diciamo. E niente, alla fine inquinamento. Alla fine una cosa che mi viene tanto da pensare è: ok, siamo tutti ricchi, abbiamo tutti la macchina, arriviamo tutti a 80 anni, quello che è. Però quante persone conoscete che non sono mai andate da uno psicologo, per dire? Cioè, alla fine c'hanno tutti qualche problema possibile. Forse lavorare 8 ore al giorno, forse passare 8 ore, poi 8 ore se sei fortunato. Se sei fortunato, sempre noi parliamo di persone fortunate. E passare poi il resto della giornata davanti alla televisione, poi dopo le 8 ore al giorno al lavoro, magari col capo ufficio che ti dice dietro, poi al lavoro ci devi andare e tornare, quindi magari a volte stai nella macchina. Sì, vabbè, poi magari manco ci torni, noi parliamo di persone fortunate, no? E quindi dopo tutto questo, ovviamente, cioè, la gente sbrocca, perché almeno io non lavoro, e spero che se mai dovrò lavorare, lavorerò molto poco, e a costo di magari campare con poco. Però penso veramente che l'etica della produzione, del profitto, del quello che poi è, insomma, non solo il capitalismo, perché, cioè, più o meno sono poche le persone o comunque le ideologie che mettono in discussione il discorso della produzione, il discorso del progresso. Ecco, il progresso che si dice, il progresso e la ricerca non sono né buone né cattive, però il progresso e la ricerca hanno bisogno di soldi, questi soldi vengono da persone che i soldi li hanno e li impiegano per fare altri soldi, quindi non esistono scienze neutre. Sì, non esistono scienze neutre, si parla dell'ambivalenza di ogni tecnologia, ma poi alla fine cos'è che, cioè, quando pensate a ricerca, cosa vi viene in mente a parte vivisezione? Cioè, uno magari pensa a nuove cure per le malattie, però la prima cosa in cui vengono impiegate le tecnologie sono scopi bellici, cioè quello è il primo motivo per cui vengono, cioè, dopo gli scopi bellici vengono quelli di controllo sociale, e poi dopo vengono, che ne so, quelli di marketing. Sì, comunque in realtà anche quando si parla di ricerca, che tu dicevi, la ricerca per curare una malattia, in realtà non è che viene fatta una ricerca per curare la malattia perché a qualcuno sta a cuore la salute delle persone, viene fatta perché dietro ci stanno delle industrie farmaceutiche che appunto trarranno vantaggio economico in maniera ingente da questa ricerca. Sì, poi per esempio guardate sto vaccino per l'aviaria che hanno fatto adesso, sì. Ma no, per l'aviaria, per la suina, poi, perché era pensato per l'aviaria ma l'hanno fatto poi per la suina. L'hanno fatto comprare un sacco di, cioè, quintali e quintali a tutti gli stati, le multinazionali si sono arricchite, e mo adesso gli stati sono come le cose piene, che cominciano a scadere, inutilizzate, perché la suina è stata soltanto un altro modo, forse probabilmente, per far arricchire questa gente. E poi anche il discorso di quanto gli stanno a cuore le persone, quando uno pensa alla sperimentazione dei farmaci, pensa solo agli animali, sicuramente quello che gli animali passano. Io studio veterinaria, cioè parecchie cose le ho viste, sono veramente agghiaccianti. Però dopo che il farmaco è stato testato sugli animali, non è che è pronto per essere messo in commercio. Ci sono 4 gradi di sperimentazione che vengono fatti sulle persone. Il primo grado è il peggiore, perché non serve a vedere se la medicina è efficace contro la malattia, serve a vedere se non è dannosa, cioè se la medicina di per sé non è dannosa sulla persona. E questa cosa viene... ci sono anche alcuni che lo fanno in Europa facendosi pagare molto, ma ovviamente dov'è che costa molto di meno fare queste cose? Costa di meno in Nigeria, in India, cioè in posti così, e non è raro che dei ragazzini muoiano perché, ad esempio, ricordo in Nigeria nel 99 mi sembra ci fu un'epidemia di meningite, e negli stessi ospedali dove Medici Senza Frontiere curava con farmaci convenzionali, cioè insomma già della cui efficacia già si era certi, altri medici pagati dalla Pfizer, almeno così sembra, ma non vorrei che la Pfizer mi denuncia, però insomma le fonti dicono questo, che stavano lì e offrivano, che ne so, $100 per provare il farmaco su un ragazzino, e ne sono morti una mezza dozzina, un'altra quindicina sono rimasti danneggiati a vita per problemi alle articolazioni, e quindi insomma. E poi dopo ci stanno altri 3 gradi di sperimentazione che sono, cioè, passato questo, spesso vengono fatti in Europa perché sono un po' meno pericolosi. Comunque insomma, cioè, non è che loro fanno distinzione all'animale, lo possiamo sacrificare, la persona no. Chi c'ha i soldi, anzi chi non ha i soldi è sacrificabile, chi li ha è il nostro cliente. Infatti mi volevo aggiungere proprio dicendo che quando ci fu la protesta, quando c'è ancora in realtà, però insomma, quando nel momento più caldo della protesta contro HLS, che ricordiamo è il più grande laboratorio di vivisezione del mondo, no, era il più grande laboratorio di vivisezione in Europa, adesso è scappato in America, quindi, e comunque sono abbastanza... E non è il più grande anche in America? No, penso fosse il più grande in Europa, almeno questo è quello che sapevo. Comunque vabbè insomma non è importante. Comunque di fatto nel caldo di questa protesta si scoprì poi che in realtà negli Stati Uniti venivano testati, c'erano un centinaio di bambini nati con delle malformazioni perché erano stati testati dei farmaci alle madri incinta, appunto per il test di questi farmaci alle madri incinta. Ecco, tu non ti ricordi? Io non ricordo questa cosa, però se lo dici ci credo, insomma. Vabbè, io me lo ricordo invece, però può essere pure che non è vero, stamattina ho detto una serie di gaffe tremende. Comunque mi ricordo così. Beh, comunque una cosa del genere, la ADHD si chiama, la malattia, insomma, quando un ragazzino non c'ha voglia di studiare, vuole solo far casino, e quello è malato secondo loro, sempre per tornare al fatto che ti devono irregimentare, è un po' un cappio che ti si stringe, già alle elementari le regole sono poche, però comunque le devi rispettare, alle medie sono un po' di più, al liceo sono ancora di più, all'università il cappio quasi te lo metti da solo, e quando sei al lavoro sei già pronto per essere portato a spasso come un cagnolino. Ora, da questa posizione direi un po' privilegiata da ascoltatrice quale sono in questo momento, ma con un microfono che mi permette appunto di esserci anche radio, mi sembrava che appunto il filo conduttore di questo discorso che stavate facendo, partendo appunto da Silvia, Billy e Costa, fosse anche una critica abbastanza radicale a quello che è la società gerarchizzata, no? Fino ad arrivare all'animalismo. Sì. E inoltre è interessante, mi sembrava anche la critica appunto alla tecnologia e al sapere che la tecnologia ha, quindi non una tecnologia neutra, ma un'industria tecnologica appunto gestita secondo dei criteri capitalistici che poi servono appunto a sfruttare non solo l'uomo ma anche in generale. Certo. Tutta la natura. Allora volevo chiedere, così proprio dal punto di vista di ascoltatrice, se ci possono essere, rispetto a queste premesse, ci possono essere delle proposte per una tecnologia utile invece a liberarci appunto da quelle che sono le fatiche che l'uomo da sempre deve insomma, a cui è costretto per poter vivere, ma soprattutto le fatiche che ci vengono imposte dal mondo del lavoro. Ci può essere una tecnologia che, certo, che serva a liberarci dalle fatiche, cioè, umane, non appunto. So, pensi tipo a un automa che faccia tutto per noi? No, ma semplicemente anche uno schiaccianoci credo che sia un attrezzo in cui la tecnica, certo, ha un... Funzionale, sì, è funzionale per... sì, diciamo che è una cosa che... Uno schiaccianoci è una cosa che si può fare pure con del legno, a saperlo utilizzare, ma anche con due sassi, insomma. Sì, però cioè, nel senso, secondo me, quello che diceva... No, forse non ho capito. Quello che esce fuori anche da questa cosa è, cioè, qual è il limite tra tecnologia accettabile e tecnologia non accettabile? Ah, boh, secondo me non esiste la tecnologia accettabile, è questo il discorso, ma non per la tecnologia in sé, per quello che comporta. Il fatto è che dietro lo schiaccianoci c'è una fabbrica che lo schiaccianoci l'ha prodotto, dentro la fabbrica ci sono degli operai che magari sì, gli tolgono ogni anno di più minuti alla pausa, li fanno lavorare il sabato, non gli danno più... le cose per malattia, cioè non lo so, nel senso, certo, dietro ogni, cioè quello, la tecnologia accettabile secondo me è quella che ti puoi fare da solo, cioè se ti vuoi costruire una culla per tuo ragazzino e te la fai con pezzi di legno, quello secondo me fa bene, però se già la fai costruire, cioè il do it yourself del punk, per me è accettabile. L'autosufficienza, diciamo. L'autoproduzione, sì. L'autoproduzione. Sì. Ovviamente, cioè stiamo qui a parlarne, è una cosa che probabilmente non vedremo mai realizzata in tutto una cosa il mondo. Che nel nostro piccolo ognuno può fare, cioè nel senso privilegiare l'auto. Privilegiarla, sì, nel senso ci sono realtà come, non so, sono degli elfi che sono comunità che abitano allo stato brado, chi più chi meno, insomma ci stanno secondo me diverse comunità, non le conosco tutte, e che cercano di vivere di autosussistenza, rifiutando molti l'elettricità e queste cose così. Però nel senso non penso che vedremo mai rasa al suolo questa società per vederne una completamente libera dall'industrializzazione. Però ecco, a me l'esempio che piace fare, anche quando mi parlano dell'anarchia come utopia, mi piace pensare agli indiani in America, con tutte le loro contraddizioni e tutto il resto, comunque non, anarchia vuol dire assenza di governo, non assenza di regole, quelle ce l'abbiamo anche, cioè io e te parlando abbiamo delle regole in un modo o nell'altro, non scritte. Loro non avevano un governo, non avevano la polizia, non avevano soldi e campavano non in armonia, perché l'armonia secondo me non esiste, è una cosa un po'... cioè la violenza esiste, come i branchi di lupi possono combattere per un territorio, i gruppi di indiani combattevano per un territorio, e queste guerre ci possono stare, però non vai lì con un fucile contro, o peggio, con dei bombardieri contro delle persone che se non hanno delle pistole, a massacrarli per prendergli il petrolio, non è, cioè sono due cose diverse, tu li stai togliendo alla popolazione la vita e la libertà per prenderti un surplus che obiettivamente non ti serve, insomma, se non per dominare il resto del mondo. Adesso sto facendo ovviamente riferimento alla guerra in Afghanistan e in Iraq, che sarebbe una missione di pace, però sì, è un po', divagato. Sì, anche se comunque mo vabbè, senza che ci dilunghiamo troppo su questo argomento, tu dici anche i branchi di lupi hanno, diciamo, così l'attitudine a combattere l'uno contro l'altro, anche se poi però, cioè, in realtà cioè, la violenza esiste, non è che possiamo stare qui a nasconderci dietro un dito, però cioè, nel senso, secondo me ci sono tipi di violenza che sono accettabili, nel senso sono connaturati, e altri tipi di violenza che sono dettati da un'avidità spropositata, che secondo me diventano intollerabili, oppure da un desiderio di oppressione e sopraffazione che non sono accettabili. Beh, però secondo te, vabbè, poi giuro che non ti chiedo più nulla su questa cosa, se no facciamo un'altra trasmissione. Dico, se secondo te per esempio il fatto che un lupo magari lotti con un altro lupo per assumere il controllo del branco, cioè anche questa è una violenza, beh, ma che pure è, questa cosa per esempio secondo me. Pure questa cosa del lupo che, perché in realtà questa cosa dei branchi con gli individui alfa, vabbè, hanno una struttura diversa dalla nostra, però per esempio non è così sicura questa cosa del lupo che ha l'individuo alfa, la coppia alfa e poi tutti sotto, perché soprattutto in Italia, dove i gruppi di lupi sono piccoli, cioè in realtà i gruppi lupi sono nuclei familiari. Sono nuclei familiari, cioè non è che c'è una lotta per la supremazia, cioè c'è il padre e la madre con la cucciolata e due o tre altre figlie che le tengono per fargli aiutare a svezzare i cuccioli e basta, insomma, cioè non c'è un... Però beh, nel senso, ci sono animali in cui la gerarchia effettivamente esiste, ma quella, cioè, sono cose loro, nel senso, ognuno c'ha... C'è, no, la propria etologia. Dicevo, poi, cioè, secondo me tra di noi e tra le persone, poi non, cioè, non so quanto possa essere accettabile questa cosa. No, non è accettabile. Ah, ok. Beh, secondo me non è accettabile, insomma. No, se stai cercando di fare un parallelo, non è accettabile più. Comunque abbiamo divagato, insomma, non è che sì, forse ho parlato un po' troppo a ruota libera. No, va bene, va bene. E allora niente, almeno però ti sei un po' tranquillizzato, non sei più emozionato come prima. La prima volta in radio, raga, mica. No, veramente hai già parlato da questa radio un'altra volta. Beh, vabbè, però era il telefono a casa mia. Era diverso. Va bene, allora niente, mettiamo un altro stacco musicale, anche questo è dedicato a Silvia, Billy e Costa, dai quali abbiamo smesso di parlare una mezz'oretta fa, credo. Vabbè, comunque ora ci ritorniamo. Ora ci ritorniamo. Vabbè, no, questa è una canzone dei Tear Me Down, si intitola Giorno per Giorno, gliela dedichiamo. Hai messo pausa, mi sa. Ho messo pausa. Permanente, negazione inesistente, conflitto permanente, fatela non correggia, tramite razionaria, razionaria! Giorno per giorno per giorno, ogni giorno! Giorno per giorno per giorno, ogni giorno! Giorno per giorno per giorno, ogni giorno! Giorno per giorno per giorno! Ma quello che conta è tornare la resa, guarda dietro le sbarre, in un tornare incluso, la morte prima del disonore. Giorno per giorno per giorno, ogni giorno. Giorno per giorno per giorno, ogni giorno. Giorno per giorno per giorno, ogni giorno. Giorno per giorno per giorno. Rivolte. Rivolte. E allora ritorniamo in diretta con le parole di Tear Me Down, per i compagni dentro nessun lamento. E linea di condotta solo combattimento. Esatto, ed è un po' quello che stiamo facendo anche noi qui ora, nel senso che comunque ci piace parlare di questi compagni non in termini di pietismo per la loro condizione carceraria infame e orribile, ma in termini di solidarietà e complicità con loro, e combattiamo, siamo tutti parte della stessa lotta. Sì, anche perché loro da dentro comunque non fanno altro che mandare contributi, comunicati. Appunto, prima ho citato uno molto bello di Billy su quando ha interrotto lo sciopero della fame, traendo le sue conclusioni sullo sciopero della fame, su quello che gli aveva ha detto bello, perché questo sciopero della fame gli aveva fatto sentire fame, ovviamente, e diceva: questo mi ha ridato il senso del mio corpo, nel senso, chiuso in una gabbia dove comunque tendono a trasformarti in un automa, tu, cioè, risenti il corpo e la rabbia che risale. Comunque il comunicato è molto bello, se avete l'opportunità andatevelo a leggere perché ne vale la pena. anche lui traccia tutto un filo conduttore tra la sua lotta contro le nocività, ma insomma, lui è stato con me sotto i CIE, cioè, anzi molte più iniziative di me si è fatto, visto che certo. È molto più attivo. Però, sì, anche perché poi, scusa se ti interrompo, ricominci subito, cioè, questi compagni di cui parliamo spesso per questioni legate, diciamo, tra virgolette, all'animalismo, in realtà poi loro, cioè, odiano farsi definire animalisti, sì. E definiscono antispecisti, perché poi sono contro ogni forma di sfruttamento che ci sta nella società, e tra sì. cui quindi anche quella animale della terra. Sì, infatti lui traccia proprio un filo tra la libertà personale, quindi quella nostra, individuale di ognuno, quella delle persone che... quella delle, cioè quella delle altre persone, quella del, degli animali, e anche quella, la libertà dell'ambiente, fa un po' strano dirlo, però insomma l'integrità dell'ambiente, che poi è presupposto per la libertà sia animale che umana, al di fuori dell'idea industriale. Sì, tra l'altro non so se hai letto anche la lettera di Silvia che ha mandato a dicembre in seguito appunto allo sciopero che stava facendo lei, che stava prolungando. Sì, appunto, anche lei faceva parlava un po' di tutti, parlava sì, dei prigionieri sì, sì. giovani baschi del Seghi, parlava dei prigionieri sì, sì, sì, sì. Ha fatto anche lei non si vedono isolati come persone certo. In difesa degli animali certo. o dell'ambiente, cioè loro comunque percepiscono la lotta come un tutto più fluido. E peraltro c'è anche una realtà che purtroppo non ha avuto molta fortuna, che è la coalizione contro le nocività, che aveva esordito l'anno scorso con dei presidi contro le FSA. Le FSA è l'organo europeo che si trova a Parma, che in pratica ha il ruolo e il potere di autorizzare le biotecnologie, come appunto gli OGM, e stanno più o meno poco per volta sdoganando il discorso OGM anche in Italia, anche in Europa, e si voleva con dei presidi non tanto combatterla, perché si sapeva di non avere le forze, ma insomma intanto attirare l'attenzione. Poi purtroppo un po' non c'è stata questa grande risposta, un po' poi anche gli arresti, insomma, è la cosa... Comunque coalizione contro le nocività esiste ancora e mette un bollettino ogni tanto, ne è uscito uno da non troppo tempo. E... anche il sito web? Sì, ma penso che non ci sia più adesso. Non c'è più il sito? Penso, io l'ultima volta che ci ho provato era... il dominio era in vendita, quindi... Ah, bene, allora niente. Quindi penso di no. Coalizione contro le nocività non c'è più, va bene. Che altro dire... non lo so, aspetta, scusa un attimo, ho perso il filo del discorso. Vabbè, mandiamo un secondo una canzone e poi ricominciamo subito. In Erosgasmo con Passione Nera. Sarà un GR bellissimo. Un abbraccio a tutti e a tutte. Ciao a tutti e a tutte.